Quando ti ho visto, mi ha colpito sul treno sul quale andavamo, il modo d'ondeggiare, la testa che avevi. E sorridendo porgevi l'orecchio per ascoltarli cadere più in là, oltre, oltre il secondo vagone, mentre gli occhi per poterti incontrare, ma tra la gente non t'ho rivista, cercando il mio posto su quel treno, era più in là del tuo finestrino, oltre, oltre il secondo vagone. Porte chiudono case ed imprigionano anche fantasie spalmate sulle rotaie. Per poco il riflesso dei tuoi denti ha eroso il guscio di vetro che ci lancia dove non vorrei mai più arrivare e continuare il rito d'un viaggio qui oltre, oltre il secondo vagone. Luoghi senza memoria sfumati, nei guizzi veloci di palpebre ingannate, c'è tempo per correre al contrario. E ritrovare il luogo esatto di ogni pensiero, come se tra i boschi di Valsenio avessi il ricordo d'averti conosciuta lì, oltre, oltre il secondo vagone. Strano viaggio dobbiamo fare, ognuno ad occupare un posto non scelto, si fa attenzione a non perdersi tra le persone col bisogno di riuscire.